Rassegna Stampa Europa. Buongiorno da Gigi Donelli, sono le 7.35 in questo istante, 10 minuti per la rassegna stampa dei quotidiani europei dell'area euro che raccontano i fatti e anche le complessità ovviamente di questi tempi dello spazio europeo. E allora partiamo questa mattina dalla Grecia, dal quotidiano Katimerini, il quotidiano quindi di Atene, nella sua versione online diventa E Katimerini. L'articolo che segnaliamo oggi ha un titolo anche curioso, perché è un interrogativo che il quotidiano greco rivolge agli irlandesi. La domanda è: ma come mai gli irlandesi non scioperano? Allora, ricostruiamo brevemente il contesto. Fine maggio 2010, piano di austerity per salvare la Grecia sull'orlo della bancarotta, quindi interviene l'Unione Europea, il Fondo Monetario Internazionale, poi diventa Troika. Ecco, da quel momento, ne avrete memoria, ne sono certo, la Grecia ha vissuto un triennio terribile, un triennio di grandi sofferenze economiche e di una protesta sociale che forse è stata la più esplicita, la più violenta, la più spettacolare d'Europa. Misurato in termini di scioperi generali, ci ricorda E Katimerini questa mattina che la Grecia in questi 3 anni ha avuto 20 grandi scioperi generali. E allora la domanda è: ma come mai gli irlandesi, che poco meno di un anno dopo entrarono nello stesso percorso, nello stesso binario, poi ci arrivò anche pochi giorni dopo la Grecia e quindi entra a far parte di questo terzetto, non segue in alcun modo questo tipo di strada e anzi ricorda con stupore E Katimerini, non ha fatto neanche uno sciopero generale. E allora la spiegazione, dice la spiegazione, spiega l'editorialista appunto del quotidiano greco, va ricercata soprattutto nella natura dei sindacati, nel rapporto tra i sindacati greci e irlandesi con i loro rispettivi governi. In generale, dice appunto E Katimerini, in Grecia si dà per scontato che qualsiasi conflitto, qualsiasi trattativa sindacale o legata al lavoro sia qualcosa praticamente privo di speranza. Viceversa, dice, gli irlandesi hanno la forte sensazione che la trattativa viene fatta su un obiettivo specifico. In Grecia, conclude con un po' di, anzi con parecchia amarezza appunto il collega greco di Katimerini, dice: in Grecia ci comportiamo sempre come se non ci fosse proprio nulla da discutere, come se avessimo già perso e come se a quel punto non ci fosse più nulla da perdere. Noi facciamo tanti scioperi, ma dei risultati positivi ne vediamo davvero pochi. Questo è Katimerini questa mattina, la versione appunto, la E davanti è la versione elettronica di Katimerini, quotidiano di Atene, un quotidiano moderato, di area moderata, con una forte tradizione nel paese. E dalla Grecia facciamo un balzo letteralmente, quindi dal sud dell'Europa al suo nord, e ci spostiamo in Svezia, Svenska Dagbladet, quindi il quotidiano svedese, che si occupa di un tema drammatico, che è quello dei suicidi. Il titolo è: i suicidi crescono ancora tra i giovani svedesi. Ora che la tradizione, anche se è drammatico definirlo tale, ma insomma che i numeri dei suicidi nel nord Europa fossero più alti rispetto a quello del sud è un fatto, diciamo, storico, un fatto statistico. Ora, quello che però avverte il quotidiano appunto Svenska Dagbladet è che i numeri stanno crescendo in maniera impressionante. La ragione? Beh, la ragione andrebbe ricercata nei tassi di disoccupazione. L'articolo sottolinea come la disoccupazione giovanile stia diventando una vera e propria fattore di panico nel paese, persino in Svezia, quando per i lavoratori sotto i 24 anni raggiunge infatti il 25%. 25%, che vale la pena ricordarlo, il quotidiano lo fa, significa 4 volte quello che è il tasso medio cui sono abituati, diciamo, gli svedesi, e che è il tasso medio che riguarda gli adulti. Quindi una crescita delle appunto della disoccupazione giovanile, che viene associata dunque all'aumento dei suicidi. Dalla Svezia alla Lettonia, dunque a Riga, qui il quotidiano è Neatka Riga, quindi le notizie di Riga, Riga capitale della Lettonia. In questo caso la questione è un altro interrogativo, ma con un aspetto forse più positivo. Dice: come mai l'austerity funziona così bene in Lettonia? Ecco, Lettonia, che lo ricordo è il prossimo paese candidato all'Eurozona, dovrebbe entrare nel 2014, insomma i preparativi vanno avanti, e il quotidiano racconta che in un appunto convegno incontro cui hanno partecipato i rappresentanti della Banca Centrale Europea, della Banca per la Ricostruzione, sia stato sottolineato i risultati positivi ottenuti dalla Lettonia in questa fase difficile. Il commentatore del quotidiano lettone dice sostanzialmente il punto che noi ci siamo abituati, o meglio, l'austerità è stata probabilmente accettata meglio in Lettonia rispetto ad altri paesi, perché la popolazione, soprattutto quella adulta, non ha affatto dimenticato i tempi di crisi molto più violente, e in particolare la transizione degli anni 90, quando il prodotto interno lordo del paese, negli anni 90, quindi stiamo parlando degli anni dell'indipendenza, uscita dal blocco sovietico, fine dell'Unione Sovietica, indipendenza delle Repubbliche Baltiche, beh, diciamo che dopo la festa furono anni durissimi, tanto che, ricorda appunto oggi Neatka Riga, il PIL del paese fu semplicemente diviso in due, e si perse il 50% del prodotto interno lordo, quindi lettoni con memoria di crisi. E ora andiamo invece in Belgio, al quotidiano De Redactie, il Belgio, che racconta di un grande raid in società che a proposito di appunto l'arte di arrangiarsi, di cui a volte si parla spesso per i paesi del sud, ovviamente non si ferma in nessun luogo particolare. Insomma, 40 società, grande operazione di pulizia. Che cosa facevano queste società? Facevano un gran giro di fatture che partiva dalla parte fiamminga del Belgio e offrivano a loro concittadini, ma non solo, l'opportunità di avere società lussemburghesi e ciprioti con fatturazione che facevano il gran tour dell'Europa per arrivare e ritornare in Belgio sgravate, scaricate di gran parte della tassazione. Questo dunque l'articolo, un articolo tra i principali segnalati da Die Redactie. E dal Belgio al Regno Unito, Telegraph, si parla molto di Brexit in questa settimana, quindi British Exit from Europe, l'abbandono del Regno Unito rispetto appunto all'Europa. Si è parlato del referendum. Ecco, in questo articolo in particolare si intervista Daniel Hannon, membro del Parlamento Europeo, euroscettico, che al Telegraph dice: ricorda come il 5 giugno la House of Commons dovrà discutere la legge che potrebbe dare ai britannici la possibilità di votare un referendum per l'abbandono dell'Europa. Hannon dice: questo sarebbe un momento perfetto, non c'è mai stata così poca passione per l'idea europea, e questo dunque, dopo il 5 giugno, la piega degli eventi nel Regno Unito potrebbe davvero avere un'accelerazione e una svolta. Infine, abbiamo ancora 5 secondi, vi segnalo solo dal 16 maggio, solo l'industria salva l'Europa, il Sole 24 Ore, Adriana Cerretelli. A Bruxelles si litiga ogni giorno, vi leggo solo veramente una riga, ma non si parla mai abbastanza di Industrial Compact, di politica industriale e rilancio del manifatturiero. Tutto questo però lo trovate sul sito, naturalmente, sole24ore.com. Bene, con questo abbiamo concluso l'appuntamento, naturalmente, con la rassegna stampa europea per la prossima settimana. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.